Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Oggi vi offro una visita speciale alla Pinacoteca di Brera. La Pinacoteca di Brera è famosissima, i suoi capolavori sono famosissimi. Uno in particolare è celeberrimo, il Cristo morto di Andrea Mantegna, che adesso è tornato alla ribalta perché è stato fatto un nuovo allestimento. Solo 2-3 anni fa era stato ideato un allestimento molto diverso da Ermanno Olmi, ma questo allestimento è stato ritenuto, diciamo così, superato da una nuova concezione dell'opera. Quest'opera è stata inserita nelle gallerie di Brera in modo cronologico, quindi intorno al 1483. Il quadro forse l'avete presente tutti, si tratta di un straordinario pezzo di bravura di Mantegna. Mantegna immagina il corpo di Cristo ripreso dai piedi e infilato e appoggiato sopra una grande pietra rossa e bianca che era la pietra dell'unzione, cioè la tradizionale reliquia sopra la quale il corpo di Cristo era stato preparato con gli unguenti per la sepoltura ebraica. Questo quadro ha una storia molto complicata, nel senso che la vera storia comincia all'inizio dell'Ottocento, quando il segretario di Brera trova a Roma questo dipinto, cerca di esportarlo in modo un po' illegale, lo porta a Milano, il segretario si chiamava Giuseppe Bossi, e poi i suoi eredi lo regalano alla Pinacoteca di Brera. Ma tutta la storia precedente di questo dipinto è un grande mistero. Perché? Perché a un certo punto la storia di questo quadro, che comincia ai tempi di Mantegna muore nella sua casa, c'è questo quadro. Mantegna non l'ha mai venduto, non l'ha mai consegnato a nessun altro. Già questa è una cosa abbastanza strana e misteriosa. Però nei secoli la storia del dipinto si sdoppia, a un certo punto ce ne sono due e noi non riusciamo a capire quale dei due poi quello veramente ha approdato a Brera. Ciò che è interessante è notare appunto il dettaglio del Cristo preso dai piedi. Mantegna era un prospettivo nato, il suo maestro Francesco Squarcione gli aveva insegnato perfettamente come si doveva fare a riprendere non solo le architetture ma anche le figure in prospettiva. La cosa interessante è proprio la pietra su cui Cristo poggia, che è quasi la protagonista del dipinto. Perché è così importante? Perché noi sappiamo da documenti d'archivio che un frate francescano alla metà del 400, anzi intorno al 1480, portò a Mantova un frammento della pietra dell'unzione. Quindi, arrivando in città questa mirabolante reliquia, è chiaro che tutti i pittori si ispirarono a questo oggetto arrivato a Mantova. Noi lo sappiamo perché ci sono addirittura delle Madonne col Bambino, dove la balaustrina dove è appoggiato il Gesù Bambino non è altro che la pietra dell'unzione. In quel caso lì il Bambino, che ha ancora piccolo, rievoca il suo triste destino, quello di morire per l'umanità. Mantegna invece vuole fare proprio un monumento alla pietra dell'unzione, che ha una caratteristica: è rossa perché la tradizione vuole che sia stata impregnata del sangue di Cristo. E Mantegna mette un dettaglio: in un angolino si vedono tre persone che piangono, al centro c'è Maria, sua madre, che versa lacrime in abbondanza. Ecco, le macchie bianche sopra la pietra dell'unzione, la tradizione vuole che siano nate dalle lacrime della Vergine.